America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Beh, non so quanti di voi hanno riconosciuto l'audio di questo spot televisivo che ha fatto storia, e lo spot con cui la Apple e Steve Jobs hanno lanciato il primo Mac nel 1984, ed è come dire la sconfitta di George Orwell, cioè il computer porta alla liberazione, non alla normalizzazione. Ecco, questo è stato uno spot, lo ricorderete, avete sentito questa ragazza, questa atleta che avanza con questo martello che lancia contro lo schermo. Ecco, l'ha voluto Jobs, uno dei tanti esempi della sua grande visione. Jobs, che ha perso la sua battaglia contro il cancro quasi 6 anni fa. Bene, ieri pomeriggio, a 33 anni di distanza, in qualche modo Steve Jobs è tornato sul palco di Cupertino per essere in qualche modo presente a un paio di eventi che segnano la storia. Il primo è la presentazione del nuovo iPhone 10, il secondo è l'inaugurazione dell'auditorium nel nuovo mega, chiamiamolo disco volante, mega nuovo quartiere generale della Apple, che ha già fatto storia proprio a Cupertino, enorme, uno dei palazzi più grandi del mondo, un cerchio con al centro dei giardini voluto proprio da Steve Jobs. È stato Tim Cook che ha voluto che Steve Jobs fosse presente. Sentiamo la sua voce in apertura della presentazione di ieri. We need to be true to who we are and remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple Apple. Is if we keep us us. Ecco, voce inconfondibile, riconoscibilissima del fondatore, la sua voce la ascoltiamo in una stanza buia. È stato un modo per passare di nuovo una staffetta tra passato, presente e futuro. Sentiamo Tim Cook, successore di Steve Jobs. I love hearing his voice and his inspiring message, and it was only fitting that Steve should open his theater. Ecco, Cook spiega perché Jobs è intervenuto a questa presentazione in un video. Steve ha detto: ha dato tanto a noi, a me, è giusto che sia lui a inaugurare il suo teatro. Steve Jobs sarebbe orgoglioso di noi. 10 anni fa, in effetti, fu proprio Steve Jobs ad aver iniziato a lavorare a questo straordinario progetto che viene chiamato un campus, come fosse un campus universitario, una costruzione che è metà azienda, metà ricerca, metà appunto campus, dove si potrà vivere in grande libertà, relax, normalità. Ecco, il quartiere generale di cui tutti parlano ancora non è finito, ma almeno è finito appunto l'auditorium, dove abbiamo avuto questa novità, l'ultima novità della Apple. We do have one more thing. This is iPhone 10. It is the biggest leap forward since the original iPhone. L'iPhone 10 rappresenta il futuro degli smartphone, perché pochi dispositivi nella storia hanno avuto un impatto come l'iPhone. In effetti l'iPhone ha cambiato molto le nostre vite, e Cook lo sottolinea, ha cambiato il modo in cui noi parliamo, lavoriamo, comunichiamo. Ma veniamo ai prodotti, perché non c'è soltanto l'iPhone 10, ma c'è stata anche l'introduzione dell'iPhone 8 e dell'iPhone 8 Plus, che sono un aggiornamento dell'iPhone 7. E l'iPhone 10 poi, come dire, è turbo ed è stato presentato per celebrare il decennale dell'introduzione dell'iPhone. Di nuovo ci sono dei miglioramenti nella performance, nella chiarezza dello schermo, ma non ci sono dei miracoli. I miracoli avvengono molto raramente. C'è stata anche la presentazione ieri del nuovo Apple Watch serie 3, c'è stata anche una nuova versione dell'Apple TV con risoluzione 4K e HDR, che di nuovo fa parte del nuovo parco prodotti di Apple. Ecco, la domanda è ovviamente una soltanto, questo consentirà alla Apple di sfondare parametri di vendita? Come ha reagito il mercato? Il mercato ha reagito, devo dire, in modo un po' freddino. Perché? Ma perché ormai si sapeva tutto. Wall Street non è, come dire, rimasta stupita da questa presentazione, e dopo un piccolo primo rimbalzo dello 0,11% in più, poi il titolo ha virato in negativo, ha perso anche lo 0,8%, alla fine ha chiuso allo 0,42%, ma pensate, era quasi arrivato a perdere l'1% a quota $162. Ecco, detto questo, Apple continua a fare miracoli, perché dall'inizio dell'anno ha guadagnato il 39%, negli ultimi 12 mesi, nell'ultimo anno il 53%, ragazzi, il 53%. La capitalizzazione è a 834 miliardi di dollari, che è una capitalizzazione record. A questo punto c'è la sfida di sfondare i 1.000 miliardi di dollari. Ci si riuscirà, non ci si riuscirà? Beh, molti pensano che prima o poi la Apple riuscirà a sfondare questa barriera. Apple che ha 116.000 dipendenti e fra questi un protagonista tutto italiano. Il direttore finanziario di Apple Computer, quindi devo dire il direttore finanziario è uno dei top 3, dei primi 3 grandi manager in qualunque azienda, Luca Maestri, romano, 50 anni, laureato alla LUIS in economia, pensate custodisce un tesoro, perché qui stiamo parlando davvero di tesoro liquido, colossale, 256,8 miliardi di dollari e l'Apple ama avere liquidità sotto mano per potersi lanciare in delle operazioni di acquisto, per poter sperimentare, per poter investire in nuovi progetti, per poter restituire contanti ai suoi azionisti. Vi dicevo, la sfida è di arrivare a 1.000 miliardi di dollari. E dunque vorrei chiudere proprio con un messaggio che ci dà Luca Maestri, intervistato al consolato italiano nel febbraio del 2017. Sentiamo che cosa ha da dire. Apple really is big on inclusion and diversity, and it's something that, again, Steve promoted from the very beginning. Beh, qui Maestri spiega come mai ci sono anche molti altri italiani che lavorano all'Apple, ragazzi che hanno preso un biglietto di solo andata come l'ha preso Maestri, spero di poterlo sentire per fare un bel solo andata anche con lui. E Maestri dice: l'Apple è davvero incredibile dal punto di vista dell'apertura, dell'inclusione di diverse nazionalità, lo ha voluto Steve Jobs naturalmente, lo ha voluto fin dall'inizio e dunque fa parte della cultura dell'azienda. Ci sono ovviamente molti italiani, ma ci sono persone da tutto il mondo, dice Maestri. E poi dà un messaggio così di riflessione, come dire, ma questi giovani italiani, dice, sono preparatissimi perché le nostre università sono molto buone, però devono anche prendere un rischio e venire da questa parte dell'Atlantico, perché le opportunità ci sono. I giovani devono capire che è più facile avere opportunità globali oggi che 30 anni fa. Se ci metti un pochino di rischio, le opportunità ci sono e dobbiamo combattere contro la rassegnazione che fa parte del sistema italiano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su americaradio4.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, chiudiamo con la canzone con cui si è aperto l'evento di Apple Computer ieri. Sappiamo che Steve Jobs adorava i Beatles, non è un caso che c'è la Apple. Sapete che la mela era il simbolo della casa discografica dei Beatles, si è proprio ispirato a quello e quindi hanno voluto dedicare indirettamente a Steve la canzone Love is All You Need dei Beatles. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!